Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Domani a Roma verranno presentati ufficialmente e resi pubblici i dati del rapporto annuale sull'innovazione energetica curato da ICOM, l'Istituto per la Competitività. Il rapporto analizza quanto si investe in ricerca energetica in Italia e nel mondo, quanto si brevetta, in quali paesi, in quali settori si investe di più, qual è il ruolo del pubblico rispetto a quello del privato. E poi ci sono anche delle proposte a conclusione di questo rapporto, di cui parliamo con il presidente di ICOM, Stefano D'Empoli. Buonasera. Buonasera. Partiamo dall'ammontare complessivo degli investimenti. Nel mondo quanto si investe in ricerca sul settore energia? Beh, nel mondo si investe, dati 2011, gli ultimi sui quali abbiamo potuto contare, circa 88 miliardi di dollari in un anno, che sono circa il 6,5% di quanto si investe globalmente, complessivamente, in ricerca e sviluppo. E la dinamica qual è di questi investimenti in energia? Aumento, nel senso che mentre a livello complessivo l'aumento anno su anno, 2011-2010, è più 6,1%, nell'energia siamo oltre il 30% di aumento. Da notare, diciamo, il dato più rilevante che colpisce è il dato cinese, insomma, che ci dice, contrariamente a quanto uno si possa aspettare di una Cina che si basa sulla manifattura, che investe poco in innovazione, in realtà la Cina oggi conta per oltre il 40% della spesa in ricerca e innovazione nell'energia. Ecco, io che ho davanti i dati, che tra l'altro verranno pubblicati domani sul Sole 24 Ore e che noi questa sera stiamo anticipando, ho qui davanti i dati, dicevo, la Cina su 88 miliardi ce ne ha messi 37,37 ed è più di due volte e mezzo quelli che ci hanno messo invece gli Stati Uniti, che sono solo 14. È impressionante, esatto. Insomma. Esatto, e tra l'altro è due volte quello che ci ha messo anche l'Europa nel suo insieme sempre due volte e mezzo rispetto al Giappone. Al Giappone, che comunque da solo... Tre aree che seguono la Cina, ma la seguono a distanza... Ormai siderale, ormai ci hanno doppiato e oltre. Ecco, se invece parliamo dei settori nei quali si stanno facendo i maggiori investimenti, sempre comunque diciamo nel campo dell'energia... Ma i settori... un tempo era il nucleare, certo, che però sta declinando e... Oggi sono sempre più le rinnovabili che in qualche modo hanno sostituito in parte il nucleare, però ecco, il dato che sorprende è quello sui combustibili fossili. Si fa molta ricerca in combustibili fossili, ma non deve sorprendere perché dipende in gran parte dalla Cina, dalla spesa cinese. Dalla stessa Cina, certo. Ricerca, esatto, in combustibili fossili che come sappiamo sono la gran parte, diciamo, della produzione elettrica cinese. Senta, parliamo un attimo dell'Italia. Allora, quanto investe l'Italia, come si classifica da questo punto di vista e quali sono i principali settori nei quali l'Italia investe a livello di ricerca e sviluppo energetico? Certo, l'Italia investe 1,3 miliardi di dollari, che ci colloca, diciamo, in una posizione non particolarmente brillante. Direi proprio di no, no? Rispetto alla Francia e alla Germania ci collochiamo, insomma, circa un terzo delle risorse, sono tra 3,5 e 4 miliardi di dollari, mentre noi appunto siamo al di sotto di 1,5 miliardi di dollari. E invece per quanto riguarda i settori nei quali comunque investiamo questo 1,3 miliardi circa di dollari, parliamo di investimenti pubblici, se non sbaglio, no? Che sono quelli che si riescono a fotografare bene, se ho capito correttamente, no? Assolutamente, assolutamente. Ecco, c'è una peculiarità, diciamo, da questo punto molto di vista. Importante, ce l'ha l'efficienza energetica, che poi è anche il settore che è più cresciuto nel tempo in Italia, almeno lato investimenti pubblici, più che triplicato nel decennio tra il 2000 e il 2011. Insomma, nel 2000 si investivano 36 milioni di dollari, nel 2011 116 milioni di dollari. Ecco, in questo siamo abbastanza diversi dagli altri paesi, che invece non investono forse moltissimo in efficienza energetica, se ho capito bene. Sì, diciamo chiaramente in termini relativi, insomma, investono meno di noi, anche se poi bisogna ricordare in termini assoluti, certo, ad esempio Francia e Germania investono molto di più. Quindi magari di noi, in termini assoluti, in termini assoluti poi investono di più rispetto a noi, quindi in termini relativi è sicuramente vero, in termini assoluti fino a un certo punto. Abbiamo parlato degli investimenti, facciamo il punto, ma molto rapidamente, invece, su quella che è la pubblicazione scientifica, sono i risultati, insomma, di questi investimenti. Quanto pubblicano i nostri ricercatori e quanto brevettiamo in Italia? Sì, direi il discorso purtroppo ci vede sui brevetti in una posizione sicuramente arretrata rispetto agli altri paesi, ed è un peccato francamente, perché poi il potenziale in qualche modo rappresentato dalle pubblicazioni sulle migliori riviste internazionali ci dice che l'Italia se la gioca, insomma, con gli altri paesi. Tanto per dare un'idea, sostanzialmente l'Italia pubblica sulle migliori riviste internazionali di energia circa il 4,6% degli articoli nel dato 2012. E i nostri ricercatori sono tra i più produttivi, credo, in assoluto, no? Se contiamo il numero di... sono tra i più produttivi al mondo. Esatto. Ecco, però queste pubblicazioni, queste ricerche, questi studi che facciamo e che ricevono anche visibilità non si tramutano in brevetti, nei quali invece, diciamo, se siamo tra i più bravi, tra i più produttivi in termini di pubblicazioni scientifiche, siamo tra i meno produttivi, quantomeno in Europa, diciamo così, per quanto riguarda i brevetti. E questa è un po' la situazione. Assolutamente sì. Allora, come si spiega questa distanza? Si spiega principalmente in base a due fattori. Il primo fattore è la struttura del nostro sistema produttivo, perché brevettano soprattutto le imprese, insomma, a livello mondiale, e naturalmente però soprattutto le grandi imprese. Insomma, questo è un dato che emerge chiaramente dal nostro studio. In un sistema come quello italiano, fatto prevalentemente di piccole e medie imprese, evidentemente ci sono tutta una serie di ostacoli burocratici, economici, di lingua. Grazie Stefano D'Empoli. Grazie a voi. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.